Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune rapide informazioni di servizio. La prima è il nostro sito radio24.it, all'interno del quale potrete trovare non soltanto la possibilità di scaricare tutte le puntate di tutte le trasmissioni pressoché in tempo reale, ma anche di abbonarvi e seguire i profili dei conduttori, all'interno dei quali alcuni hanno un blog. Io ne ho uno, Guardie o Ladri, lo conoscete, devo dire, lo visitate frequentemente, di questo veramente me ne rallegro, come diceva un mio zio brasiliano. La seconda informazione di servizio è quella relativa alla nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it, che è stata raggiunta da una bellissima lettera, dico bella per la passione, ma lo scoprirete anche con una certa dose di, come dire, di dubbio, di dispiacere perché si lascia una casa, ma adesso vedremo di cosa si tratta. È stata raggiunta, dicevo, la nostra mail da questo radioascoltatore della provincia di Monza, nel comune di Biassono, e il nostro radioascoltatore si chiama Dario Maconi. Buongiorno Maconi. Buongiorno dottor Galullo. Allora, il dottor Maconi è tra quelli che si trovano in una condizione, diciamo così, disgraziata perché devono abbandonare la propria casa, fortunata da un certo punto di vista perché viene disciplinata e regolamentata questa uscita, e perché viene regolamentata perché lì, in quel passo, in quel porzione di territorio, di comune in cui abita lui ed altre persone, dovrà passare l'autostrada Pedemontana, un'opera straordinaria che dovrebbe interessare e coinvolgere la regione Lombardia, anzi di fatto sta coinvolgendo la regione Lombardia, una opera attesissima da anni. Il problema è che lui deve uscire di casa, però così semplice non è. Maconi, ci racconti la sua storia gentilmente. Sì, farò un breve riassunto. Prego. Nel settembre 2008 veniamo informati che le nostre abitazioni si troveranno sul tracciato dove passerà Pedemontana e quindi dovranno essere abbattute. Dopo varie vicissitudini, incontri, arriviamo al settembre 2009 e troviamo un accordo per una vendita bonaria ad Autostrade Pedemontana. Ebbene, da settembre 2009 non abbiamo sentito in pratica più nessuno. Ecco, la interrompo soltanto per chiederle questo. L'accordo bonario c'è stato, non avete più sentito nessuno. Che cosa vuol dire? Che voi avete cercato di capirne qualcosa di più contattando Autostrada Pedemontana, oppure c'è stato un silenzio da parte vostra e da parte della società? No, noi abbiamo cercato di contattare Autostrada Pedemontana. Ci hanno sempre risposto che c'era una procedura burocratica da seguire, prima l'approvazione del CIP, poi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e altro che adesso non mi viene in mente. Comunque siamo arrivati a settimana scorsa, dove io ho contattato ancora Pedemontana e mi è stato appunto detto che non si sapeva ancora niente. Ecco, la cosa è abbastanza drammatica e raccontiamo il perché molti di voi vorrebbero procedere alla vendita della casa. Qualcuno si è anche impegnato, forse sarà stato, non lo so, me lo dica lei, stipulato qualche rogito. Di fatto lei conclude la sua lettera con una frase che mi permetto di dire ironica, ma in realtà ha un retrogusto molto amaro, e dice: ma insomma, questi qui si sono dimenticati di noi, vogliono passarci sopra e asfaltarci, visto che entro la primavera del 2011 dovremo andarcene. Esatto, io mi trovo in questa situazione, nel senso che abbiamo cercato di farcene una ragione, ci buttano le case, abbiamo cercato una casa nuova senza aspettare che Pedemontana ci offrisse la ricostruzione, abbiamo cercato per conto nostro, abbiamo trovato, però adesso noi dobbiamo anche... Sì, insomma, volete una risposta, giustamente, volete sapere quando è che dovrete lasciare le vostre abitazioni, quando è che potrete stipulare dei rogiti, quando è che potrete trasferire le vostre cose, abbandonare casa e ricordi, perché sempre così è, e trasferirvi nelle vostre nuove abitazioni, anche perché la primavera 2011 vuol dire fra pochi mesi, un anno, poco più di un anno. ma in realtà 12 mesi sono veramente un arco di tempo brevissimo. Allora, questa è la descrizione che riguarda certamente il nostro radioascoltatore, molte altre persone che si trovano in quella condizione, che si troveranno in quella condizione nel futuro, che lo si sono già trovate in varie parti d'Italia, perché come sappiamo i tracciati stradali, autostradali o le costruzioni delle grandi opere spesso portano a degli espropri o degli allontanamenti forzati o meno concordati dalle proprie case. Basti pensare quello che è successo in Lombardia, qui a Milano, per l'area della Malpensa. Dottor Lombardo, lei è amministratore delegato di Autostrada Pedemontana Lombarda. Innanzitutto corregga le parti eventualmente sbagliate di questa ricostruzione del radioascoltatore. Intanto buongiorno. Lei, ai suoi radioascoltatori, al signor Maconi. Io mi permetto non di dire delle cose diverse da quello che il signor Maconi, ma sottolineare un attimino. Prego. In questo senso. Allora, anche lui nelle pieghe della sua dichiarazione ha detto che ci ha provati a contattare e ha avuto delle risposte, quindi noi siamo sempre stati tempestivi e questo lo ha detto, lo ha accennato il signor Maconi, come anche precisato che si aspettava una procedura. Io proprio qualche minuto fa ho registrato mentalmente quello che lui ha detto. È vero, c'è una procedura da assolvere, quindi il 6 novembre il CIPE ha approvato. Il 19 gennaio la Corte dei Conti ha approvato per sua competenza. Il 18 febbraio è avvenuta la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. Questo è il semaforo verde che ci dà la possibilità di perfezionare gli accordi con tutti i privati o con tutte le aziende. Quindi soltanto pochi giorni fa, possiamo dire, c'è stato quello che per voi era l'atto che poteva sancire il definitivo contatto con i singoli proprietari. Permette, sì, dottor Gallullo, volevo anche dirle, tant'è vero che abbiamo già all'inizio di questa settimana attivato i notai proprio per incominciare a svolgere gli atti di acquisizione. Questa è una buona notizia. Tutto questo, mi scusi, per dirle ancora una volta a lei e a tutte quante le persone che siamo 6 mesi in anticipo rispetto al cronoprogramma. Allora, questa è una buona notizia. Cioè, la buona notizia in realtà è doppia. Da una parte, voi avete avuto l'attivazione dei notai che dovranno contattare i proprietari, dall'altra parte siete in anticipo con, diciamo così, le procedure, i lavori e quant'altro. Questo cosa vuol significare a questo punto, Lombardo? Che le persone che risiedono in quella parte del territorio a giorni verranno contattati dai vostri uffici, allora? Io intanto mi rendo conto, mi permetto, vi ho rappresentato la procedura. Certo. Io sono convinto che comunque tutti gli uomini di Autostrada Pedemontana hanno lavorato in questi mesi, in questi anni, con la delicatezza del caso, perché mi rendo conto che andare a contattare i privati come le aziende per dire guarda che di qua passerà l'autostrada, certo, io sono convinto e sono sicuro, perché conosco le persone che hanno fatto, hanno lavorato con molto cuore in questa situazione, tant'è vero che si arriva sempre ad accordi bonari come ha detto prima il signor Macron. Certo, certo. E così vogliamo mantenere, quindi l'aspetto domestico è sicuramente per noi un obiettivo, ecco, da mantenere. Quindi Lombardo, vuol dire che quella data primavera 2011 rappresentata dal nostro stesso radioascoltatore, entro la quale appunto dovranno lasciare le abitazioni, sarà confermata, insomma è quello, possiamo dirlo. Ma a guarda, chi ci sente, io non voglio fare adesso scusi, perché sennò significa che giochiamo a ping pong io e il signor Maconi. Io volevo proprio rappresentarla prima di tutto con precisione tutti i passaggi procedurali, sì, e le ho confermato che già da questa settimana iniziano proprio i lavori dei notai. Benissimo. Quindi, benissimo. Questo è per massima tranquillità e sicurezza. Benissimo. E per chiudere nel migliore dei modi, come le dicevo prima, le trattative. Benissimo, allora io ringrazio Salvatore Lombardo, amministratore delegato di Autostrade Pedemontana Lombarda, che ha confermato che le procedure burocratiche sono pressoché terminate, il semaforo verde è arrivato, i notai si stanno mettendo in moto per contattare tutti i proprietari di immobili privati o di aziende, imprese o terreni agricoli sul cui percorso, sul cui tracciato passerà la Pedemontana, l'attesa autostrada Pedemontana Lombarda. Grazie al nostro radioascoltatore Maconi, in regia Filippo Aureggi, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Gallullo vi augura una buona giornata.